ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge «Ho servito il re d'Inghilterra» di Bumil Rabal, traduzione di Sergio Corduas. State attenti a quello che adesso vi dico. Ogni serata l'hotel La Quiete era gravida di attesa fino a scoppiare. Non veniva nessuno, non arrivavano auto e ciononostante l'intero albergo era pronto come un orchestrion nel quale a un tratto qualcuno mettesse una corona e lui comincia a suonare. Era quell'albergo come una banda, il direttore ha la bacchetta alzata, tutti i suonatori più che pronti e concentrati, ma la bacchetta, il tempo, per ora non lo dà. E non potevamo né sederci né stenderci un po', dovevamo mettere a posto qualcosa o starcene appena appena appoggiati al tavolinetto di servizio, anzi perfino il garzone stava chino sul ceppo nel cortile illuminato e teneva in una mano l'accetta e nell'altra il ciocco e anche lui aspettava il segnale perché la sua accetta calasse melodicamente e tutto quell'albergo si sarebbe messo in moto come in un campo di tiro a segno dove le molle sono tese ma non viene nessuno per poi caricare a un tratto con i pallini i fucili. Una volta arrivati i clienti e colpire il bersaglio, ogni sagoma intagliata e dipinta sulla miere coi legacci e far lavorare i congegni ora e domani proprio come ieri, solo che qualcuno abbia colpito il bersaglio nero. Mi ricordava anche la vera favola della bella addormentata nel bosco, come tutti si erano irrigiditi nella situazione in cui li aveva colti la maledizione perché poi al tocco della bacchetta magica tutti i movimenti incominciati finissero oppure quelli nascenti incominciassero. E poi a un tratto si sentì in lontananza un'auto e il capo seduto sulla sedia a rotelle vicino alla finestra dette il segnale col fazzoletto e Zdenek mise una moneta nella pianola e quella incominciò a strimpellare i milioni di Arlecchino. Quell'organetto e orchestrione era ricoperto di cuscini e di strisce di feltro. Sembrava che suonasse in un altro locale e il garzone calò l'accetta e sembrava stanco, ricurvo, come se spaccasse legna già da mezzogiorno. E io misi il tovagliolo sul braccio e aspettai. Chi sarà col nostro primo cliente? Ed entrò un generale, con un mantello del generale dalla fodera rossa. Costui certo si fa fare l'uniforme dalla stessa ditta dove io mi faccio il frac, ma questo generale era un po' triste. Dietro di lui arrivò il suo autista, portò una sciabola dorata, la posò su un tavolino e se ne andò. Il generale fece il giro delle stanzette, esaminò tutto e si fregò le mani. Poi si mise a gambe larghe e con le braccia dietro la schiena e guardò il cortile e il nostro garzone che spaccava la legna. Intanto Zdenek aveva portato il secchiello d'argento per lo champagne e stava portando in tavola le ostriche e vassoi con gamberetti e gamberi e quando il generale si fu seduto Zdenek aprì lo champagne, anche il trocken, versò una coppa e il generale disse «Siete miei ospiti». E Zdenek fece un inchino e portò e riempì i due bicchieri. Il generale si alzò e batté i tacchi degli stivali ed esclamò «Prosit!» e beve. Ma solo un sorso. Noi vuotammo i nostri bicchieri e il generale fece una smorfia e sussultò e sputò disgustato. «Puah! Non posso berla questa roba!» E poi si mise un'ostrica nel piattino. Alzò il capo e la sua bocca vorace succhiò la tenera carne del mollusco spruzzata di limone e sembrava di nuovo che avesse mangiato con gusto, ma sussultò sibilando di disgusto, tanto da lacrimare, e tornò indietro, finì il bicchiere di champagne, e quando l'ebbe finito urlò «Ah, ma questa roba davvero non posso berla!» e si mise a passeggiare di stanza in stanza, e ogni volta che tornava prendeva dai vassoi pronti ora un pezzetto di gambero, ora una foglia di insalata. Ora prendeva un poco di salpicon e ogni volta io prendevo paura perché il generale urlava di disgusto e sputacchiava tutto. «Ah, ma è immangiabile!» E di nuovo tornava e porgeva il bicchiere per farselo riempire e domandava a Zdenek e Zdenek faceva un inchino e parlava del Veuve Clicquot e in generale dello champagne. Lui però riteneva il migliore ciò che stava offrendo, anche il trocken. E il generale rincuorato beve ma risputò, poi finì il bicchiere e andò di nuovo a guardare il cortile. Tutto era buio, soltanto il garzone illuminato e il suo lavoro, e i muri illuminati, tutti coperti di ceppi di pino. Il capo girava nel silenzio, arrivava, faceva un inchino e poi se ne andava. Il generale cominciava a essere di buon umore, come se quel disgusto per i cibi e le bevande si fosse spezzato, gli avesse cresciuto l'appetito. Poi passò una bottiglia di cognac e beve un'intera bottiglia di armagnac e dopo ogni sorso del bicchiere faceva smorfi, bestemmiava orrendamente, sputacchiava alternando ceco e tedesco. «Diese Schnaps kann man nicht trinken!» E la stessa cosa con le specialità francesi. Dopo ogni boccone sembrava che quel generale avrebbe vomitato. Giurava di non prendere più nemmeno un boccone, di non bere nemmeno un sorso. Si rivoltava contro il maître e me: «Che cosa mi offrite? Mi volete avvelenare, disgraziati, voi volete la mia morte!» Ma poi beve ancora una bottiglia di Armagnac, e Zdenek gli tenne una lezione sul perché il miglior cognac si chiama Armagnac e non Cognac, che è un brandy perché Cognac è solo quella regione che si chiama Cognac, sicché magari un cognac migliore sta a 2 chilometri dalla regione di Cognac e non si può chiamare Cognac ma brandy. E alle 3 del mattino, quando il generale proclamò che non avrebbe più tenuto, che alle 2 l'avevano ammazzato per avergli offerto una mela, alle 3 aveva già mangiato e bevuto tanto il generale che sarebbe bastato per una compagnia di 5 persone, eppure continuava a lamentarsi che non ce la faceva, che probabilmente si era fatto un cancro e nella migliore delle ipotesi un'ulcera allo stomaco, che aveva il fegato a pezzi e sicuramente i calcoli ai reni, e così alle 3 del mattino cominciò a essere ubriaco e tirò fuori la pistola di ordinanza e sparò un bicchiere che stava sul avanzale di una finestra e fece un buco nella finestra, ma il capo arrivò silenzioso sulla ruota di gomma, rideva e si congratulava ed espresse il desiderio che come augurio di felicità a lui il generale tentasse di sparare a una lacrima di cristallo di un lampadario veneziano e disse che l'ultima grande prestazione l'aveva veduta lì. Il principe Schwarzenberg aveva gettato in aria una moneta da 5 corone e l'aveva centrata con uno schioppo subito prima che cadesse su un tavolo. Il capo si allontanò e prese una bacchetta e sopra il camino indicò il foro percorso dalla pallottola deviata dalla moneta d'argento. Il generale però si era specializzato in bicchierini, sparava e nessuno se ne scandalizzava, e quando sparò a una finestra e la pallottola fischiò sopra il garzone ricurvo, il quale continuava a spaccar legna, il garzone si limitò a fregarsi un orecchio e continuò nel suo lavoro. Poi il generale prese un caffè alla turca e di nuovo si mise la mano sul cuore e affermò che quel caffè non doveva assolutamente berlo, e prese poi ancora un altro caffè. E poi dichiarò che se ci fosse stata una poularda arrosto ne avrebbe avuto voglia prima di morire. Quando si fu lamentato ed ebbe strillato abbastanza, come se tutto gli fosse sparito, domandò il conto. Il maître glielo portò, aveva già tutto conteggiato, gli porse quel conto dentro un tovagliolo su un piatto, ma dovette leggere al generale quella spesa e soprattutto quello che realmente aveva preso. E Zdenek glielo disse, cifra dopo cifra, e il generale sorrideva e sorrideva sempre più, finché scoppiò a ridere, sghignazzava e si compiaceva, del tutto sobrio e in salute. Anche la tosse gli era passata, si era anche del tutto raddrizzato, si aggiustò un attimo le spalle nella giubba, e poi, bello, con gli occhi sfolgoranti, comandò ancora di fare un pacchettino all'autista. Pagò al capo con biglietti da 1000, arrotondò sistematicamente a 1000, probabilmente era questo il costume lì, e poi offrì 1000 corone per la sparatoria, il soffitto e i vetri sforacchiati e domandò al capo: «Bastano?» E il capo annuì: «Bastavano». E io ebbi 300 di mancia. E il generale si gettò sulle spalle il mantello con la fodera rossa, afferrò la sciabola dorata, inforcò il monocolo e se ne andò. Tintinnavano dietro di lui gli speroni da cavallo, e camminando riusciva con una scarpa a scostare la spada per non inciamparvi, per non rotolar giù. ¶¶ E questo generale ritornò il giorno dopo, però non più da solo, bensì con certe belle signorine e con un poeta grasso, e questa volta non si sparò, ma litigavano sulla letteratura e certe correnti poetiche così ferocemente da sputacchiarsi in viso, e io pensavo che il generale avrebbe sparato al poeta, ma poi si calmarono e cominciarono a litigare su una scrittrice di cui dicevano continuamente che confondeva la vagina col calamaio. Un sacco di gente intingeva la penna nel suo inchiostro, e poi per quasi 2 ore sparlarono di uno scrittore di cui il generale affermava che se avesse quel tizio affrontato i propri testi come affrontava le vagine altrui, sarebbe stata una buona cosa sia per lo scrittore che per la letteratura cieca. E il poeta affermava al contrario, che si trattava di un vero scrittore del quale si poteva dire che se subito dopo Dio più di tutti aveva creato Shakespeare, subito dopo Shakespeare aveva creato quel nostro poeta sul quale stavano discutendo. E fu bello che il capo, appena erano arrivati, aveva dovuto far chiamare la musica, e quella musica suonava per loro senza sosta, e loro con quelle signorine bevevano mostruosamente, e il generale non soltanto inveiva ogni sorso e pezzetto di cibo, ma fumava anche come un dannato, e ogni volta che se ne accendeva una tossiva a lungo e guardando la sigaretta urlava: ma che porcheria ci mettono in questa egiziana? Però tirava così forte che il mozzicone brillava nella penombra, e la musica suonava, i suonatori bevevano, e poi era un fatto vistoso in quei due clienti che in grembo avessero sempre le signorine, e ogni momento salivano su nelle camere e dopo un quarto d'ora tornavano ridendo a crepapelle. Solo il generale, ogni volta che saliva le scale, teneva una mano fra le cosce della signorina che saliva e si lamentava: quando mai l'amore non fa più per me, poi queste sarebbero delle signorine. Però saliva anche lui, tornava dopo un quarto d'ora, e io vedevo come la signorina era grata e innamorata, e aveva fatto la stessa fine dei due armagnacchi e delle bottiglie di champagne anche in Trocken Cordoba del giorno prima. E poi presero di nuovo a parlare della morte del poetismo e della nuova corrente del surrealismo che stava entrando nella seconda fase, e dell'arte impegnata e dell'arte pura, e tanto urlavano tutti e due che passò la mezzanotte e alle signorine non bastava mai lo champagne e il cibo. Sembrava che quel cibo glielo mettessero sempre dentro e ritirassero fuori, tanta fame avevano. E poi i suonatori dissero che era finita, che dovevano andare a casa, che non avrebbero più suonato, e quel poeta prese le forbici e scucì la medaglia d'oro della giubba del generale e la gettò ai suonatori, e quelli ricominciarono a suonare. Erano zingari o ungheresi. E di nuovo il generale salì in camera con una signorina, e sulle scale di nuovo disse che come uomo era caput, e dopo un quarto d'ora di nuovo tornò, e quel poeta di nuovo gli dette in cambio con la sua prima signorina, e i suonatori riponevano gli strumenti, se ne andavano a casa, e così il poeta prese le forbici e tagliò altre 2 decorazioni e le gettò su un vassoio, e il generale prese le forbici e tagliò le decorazioni rimaste e le gettò sul vassoio con le altre, e tutto questo per quelle belle signorine. Anche noi lo commentavamo come il più grande atto trasgressivo che avevamo mai visto in vita. Zdenek mi sussurrò che erano le massime decorazioni inglesi e francesi e russe della prima guerra mondiale, e il generale si tolse la giubba e cominciò a ballare, disse e inveì contro la signorina. Con lui doveva andarci piano, è debole di polmoni e di cuore, e pregò gli zingari di suonare un Axardas. E così gli zingari incominciarono, e anche il generale, e dopo un momento, quando ebbe finito di tossire, rantolare, cominciò a ballare, e la signorina dovette accelerare, e il generale ora aveva liberato le mani, e una l'alzò, e con l'altra strisciava in terra come un gallo, e acquistava velocità, e in qualche modo ringiovaniva, e la signorina non gli stava più dietro, ma il generale non mollò, e ballava, e intanto baciava con la signorina sul collo, e i suonatori circondarono i ballerini, e nei loro occhi si vedeva l'ammirazione e la complicità, gli si vedeva negli occhi che il generale ballava al posto loro, e così mantenevano i contatti col soldato attraverso la musica, della quale aumentavano e poi diminuivano la velocità secondo il ballo e le forze del generale, il quale però continuava a superare la ballerina che respirava affannosamente, le venivano le gote rosse, e in alto sulla balconata stava il poeta grasso con la signorina che era andata con lui in camera, e ora prese in braccio la fanciulla e dalla porta aperta uscì fuori, e così offrì al primo sole quell'ubriaca seminuda signorina che aveva la camicetta strappata. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. E poi verso il mattino, quando i treni del mattino già portavano gli operai al lavoro, arrivò l'auto del generale. Un lungo macchinone aperto, una Hispano Suiza a 6 posti. Davanti c'è un vetro di protezione e dietro cuscini rivestiti di pelle. E la compagnia pagò le spese. Quel poeta pagò con un intero libro, 10.000 copie, così come Yodel e la vita di Gesù Cristo, ma le pagò con piacere e disse, niente, andava subito a prendere un anticipo e partiva per Parigi e avrebbe scritto un libro nuovo, ancora più bello di questo che si erano appena bevuto, e caricò il generale in camicia bianca. Aveva le maniche tirate su, la camicia aperta e dormiva. Era seduto dietro fra le signorine. Davanti c'era il poeta che si era infilato una rosa rossa nel bavero e davanti a lui, con la sciabola dorata del generale sfoderata, stava appoggiata con un gomito al vetro anteriore quella bella ballerina. Aveva sulle spalle la giubba del generale aperta con le decorazioni tagliate. Sul cappuccio dei capelli sciolti aveva il berretto del generale e così dritta, con 2 enormi seni, Zdenek disse che sembrava la statua della Marsigliese. Così la compagnia scese fino alla stazione. Ecco gli operai che salivano nei treni, la vettura del generale correva lungo il marciapiede in direzione di Praga. E la fanciulla con i seni di fuori estraeva la sciabola e gridava «A Praga!» E così arrivarono a Praga. Dovette essere bello, ci giunse notizia del fatto che, insomma, col generale, col poeta e con le signorine, principalmente con quella signorina della camicetta strappata, con i 2 seni che sporgevano fuori e la sciabola sfoderata, avevano attraversato Corso Napripokic e Narodnitrida. E i poliziotti gli facevano il saluto, mentre il generale dormiva, con le mani sul pavimento, seduto dietro nella Hispano Suiza. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. E qui, nell'hotel La Quiete, ho anche capito che chi si è inventato che il lavoro nobilita l'uomo non è stato nessun altro se non quelli che qui avevano bevuto e mangiato tutta la notte con le belle signorine sulle ginocchia, quei ricchi che sapevano essere felici come bambini piccoli. E io pensavo che le persone ricche sono maledette, o che... pensavo che le casette, le alcove e la minestra di patate danno alla gente la sensazione della felicità e del benessere, che la ricchezza è maledetta. Ma come sembra, anche queste chiacchiere di come si sia felici nelle casette, anche questo l'hanno inventato questi nostri clienti, per i quali era lo stesso quanto spendevano in una notte, i quali gettavano banconote ai 4,20, e questo gli faceva bene. Non ho mai visto uomini così felici come questi ricchi industriali fabbricanti. Come vi ho detto, sapevano ruzzare e gioire della vita come piccoli monelli. Addirittura si facevano dispetti a tranelli l'un l'altro, tanto tempo avevano per tutto. E sempre in mezzo a quell'allegria, a un tratto l'uno domandava all'altro se non aveva bisogno di un vagone di maiali ungheresi o di 2 o di un treno intero. E poi a sua volta l'altro, guardando il nostro garzone che spaccava la legna, loro infatti quei ricchi avevano sempre l'impressione che quel garzone fosse l'uomo più felice del mondo, e così guardavano sognanti quel lavoro che apprezzavano ma non avevano mai fatto, e se l'avessero dovuto fare sarebbero stati infelici, e la loro felicità se ne sarebbe andata. A un tratto così domandava, ad Amburgo avrei una nave di pelli di vacca congolesi, non sai che se ne potrebbe fare? E quell'altro, sempre come se non si trattasse di una nave ma di una stalla, che percentuale avrei? E il primo disse 5, il secondo disse 8, c'è il rischio che ci siano vermi, i negri le salano male. E così il primo stese la mano e disse 7, per un attimo si guardarono l'un l'altro negli occhi, poi si strinsero la mano. E tornavano le signorine, e con la loro mano riprendevano a metterla sui seni delle donne nude, sulle collinette pettinate di peluzzi sulla pancia, e le baciavano a bocca piena come se mangiassero ostriche o succhiassero lumache bollite. Ma da quando avevano comprato o venduto treni di porcellini e navi di pelli, da quel momento era come se fossero ringiovaniti doppiamente. Alcuni di questi nostri clienti qui compravano e vendevano intere vie di caseggiati. Addirittura qui furono messi in vendita e poi anche venduti perfino una fortezza e due castelli. Si comprò e si vendette qui una fabbrica. I direttori generali negoziarono qui una fornitura di buste per l'Europa intera. Negoziavano prestiti di 500 milioni di corone per una qualche zona dei Balcani. Furono venduti 2 treni di munizioni. Furono forniti da noi gli armamenti per alcuni plotoni arabi. E tutto alla stessa maniera, con lo champagne, le signorine, il cognac francese e con la vista della finestra sul garzone illuminato dall'alto che spaccava la legna. Fra passeggiate nel parco per le notti di luna, giocando a chiapparello e a nascondino, giochi che finivano nei covoni di fieno che il nostro capo teneva anche lui in giardino come decorazioni, così come il garzone che spaccava la legna. Poi ritornavano all'alba, capelli e vestiti pieni di bruscoli e fili d'erba secca, tutti felici come dopo una serata a teatro, e distribuivano ai suonatori e a me biglietti da 100 corone. Manciate piene di centoni con uno sguardo significativo. Non avevamo visto niente e non avevamo sentito niente. Anche se avevamo visto tutto e avevamo sentito tutto mentre il capo faceva inchini dalla carrozzella con la quale passava silenziosamente sulle ruote di gomma di stanza in stanza affinché tutto fosse sempre in ordine, affinché soddisfacessimo ogni desiderio, perché il nostro capo teneva presente ogni cosa. Addirittura se a qualcuno al mattino veniva voglia di una coppa di latte fresco o di crema fredda, anche tutto questo qui c'era. Anche per vomitare nelle toilette piastrellate avevamo degli appoggi, un vomitatoio per singolo con adeguati manici cromati e un vomitatoio collettivo simile a un lungo abbeveratoio per cavalli sopra il quale stava un manico, sicché i clienti stavano in piedi, si tenevano quel bastone e vomitavano in gruppo facendosi coraggio, mentre io quando vomitavo, anche se nessuno mi vedeva, mi vergognavo di rimetterli. Ma i ricchi vomitavano come se questo facesse parte della festa, dell'educazione. Quando avevano finito di vomitare, tornavano con le lacrime negli occhi per mangiare e bere dopo un attimo con ancora maggior gusto, come gli antichi slavi. Il maître Zdenek era un vero maître. Aveva imparato il mestiere a Praga, all'Aquila Rossa. Lì c'era un vecchio maître che gli aveva insegnato il mestiere. Questo maître era stato cameriere personale in un circolo di nobili frequentato dall'arciduca d'Este in persona. Questo Zdenek faceva servizio come in una nube creativa. Lui in generale si annoverava tra i clienti, infatti era sempre loro ospite, aveva sempre ad ogni tavolo un bicchiere dal quale si limitava a sorseggiare, ma brindava sempre con tutti alla salute, si muoveva, portava il cibo, tutto come trasognato, con certi movimenti vorticosi. Se qualcuno gli avesse tagliato la strada sarebbe stato uno scontro terribile. Aveva movimenti del corpo armoniosi ed eleganti, qualunque cosa facesse, e non si sedeva mai, stava sempre in piedi. E sapeva sempre che cosa probabilmente voleva ognuno, e portava in anticipo la cosa di cui il cliente aveva giusto voglia. Con Zdenek una volta andai anche a far bagordi. Zdenek aveva anche lui quell'abitudine da conte di spendere quasi tutto ciò che aveva guadagnato. Negli altri posti ordinava proprio come i nostri clienti e gli rimanevano sempre tanti soldi. Quando al mattino tornammo in taxi, svegliò l'oste della più abbandonata bettola di un paese, comandò di andare a svegliare i musicisti, i suonatori, e questi dovevano suonare per lui. E Zdenek andò di casa in casa a invitare i dormienti a venire a bere la sua salute, che venissero tutti in osteria, e poi gli suonava la musica e si ballò fino all'alba, fino al mattino. E Zdenek, quando ebbero bevuto tutto quello che l'oste aveva in bottiglia nelle botti, svegliò il proprietario dei generi coloniali e al minuto e comprò ceste intere di bottiglie, fece regali a tutti i vecchi e le vecchie, e pagò non soltanto tutto quello che avevano bevuto in osteria, ma anche tutti quei rosolini e tutto quello che aveva distribuito, e rideva e fu beato solo quando ebbe speso tutto. E poi questa era una cosa tipica sua, che si frugava tutto, e siccome non aveva fiammiferi, prese in prestito 20 centesimi, si comprò i fiammiferi, si accese una sigaretta. Lui che amava accendere dalla stufa dell'osteria con una banconota da 10 arrotolata, e così si è acceso un sigaro. E poi ce ne stavamo andando. La musica suonava per noi. E al momento buono Zdenek comprò tutti i fiori dei giardinieri e lanciava garofani, rose e crisantemi. E la musica ci accompagnava oltre il paese e l'automobile incoronata di fiori ci riportava all'hotel La Quiete, perché quel giorno, anzi, quella notte, l'avevamo libera. Fausto Paravidino ha letto «Ho servito il re d'Inghilterra» di Bumil Rabal. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.